Ciao a tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Silva. Vergognosamente questa trasmissione la faccio dalla spiaggia, registrata. Mi dispiace per quei compagni che diciamo sono costretti a stare a casa, ma c'è una giornata di ferie e è chiaro che non potevamo non parlare di quel che diciamo è successo in questi 2-3 giorni, insomma, il ritorno dei talebani. Però prima di passare a questa questione, riecco i talebani, è chiaro che dobbiamo dire che come attività nostre del centro non è che abbiano avuto una pausa, sì, sotto alcuni aspetti sì, è una pausa, però siamo stati lo stesso impegnati, siamo stati al campeggio a Brindisi, sono stati momenti di riflessione, c'è stato un lavoro in corso. È chiaro che a pieno regime ritorneremo diciamo dalla settimana prossima in poi, però è chiaro che, ecco, prima di entrare nell'oggetto della trasmissione, è chiaro, non possiamo non ricordare che sono venuto a mancare la compagna Paola Staccioli e il compagno è Claudio Loboli. Quindi sono due persone che hanno avuto a che fare con il centro. Paola Staccioli diciamo qualche anno fa è venuto a presentare il libro Sebbenché siamo donna, che è stata una bella iniziativa insieme alla Bagaldini, e Claudio Lolli ha fatto il concerto ad Asilo Politico. È chiaro, sono due mancanze, due persone che ci mancheranno. E ritorniamo all'oggetto della trasmissione, il ritorno dei talebani. Noi potremmo dire, ecco, quando l'umanità moderna si trova stretta tra i due fondamentalismi, quello di carattere religioso presunto tale e quello del pensiero unico del capitalismo imperialismo. Quindi, però, è chiaro che possiamo affermare che entrambi rappresentano le due facce della stessa medaglia, e laicamente, da un punto di vista marxista, anarchico, come ci vogliamo considerare, tale affermazione non è sbagliata, perché sia il fondamentalismo religioso che il capitalismo prevedono simili sistemi relazionali basati su scale gerarchiche, discriminazione, logiche basate sul profitto, ed entrambi i due fondamentalismi sono accomunati dall'uso della guerra o delle imposizioni, con ogni mezzo necessario, tra l'altro, che entrambi questi mezzi violenti sono tesi alla legittimazione delle proprie ragioni d'essere e di esistere. Vediamo che, proprio per ritornare ai fondamentalismi, il nostro pianeta storicamente è stato attraversato da tantissime guerre, ma le varie fasi storiche più buie e cruente sono state, sfortunatamente lo sono nei tempi attuali, quella a sfondo religioso etnico. Guerre tra l'altro contrassegnate da inaudita violenza, che non solo hanno lasciato il segno storicamente, ma che nel tempo si sono sedimentate. E ricordiamo che ogni forma di fondamentalismo tende di affossare ed impedire ogni tendenza razionalistica, critica e laica. Le politiche imperial-colonialiste di fondamentalismo etnico-religioso, come abbiamo detto prima, contrassegnate e motivate rispettivamente, ecco, l'imperialismo, il colonialismo, vengono motivate con l'esportazione della civiltà, delle democrazie. Mentre quelle è, diciamo, il fondamentalismo etnico-religioso dalla unicità religiosa, quindi da motivazioni prettamente religiose, e che entrambe storicamente hanno lasciato e determinano tuttora una lunga scia di sangue per via delle guerre, genocidi, eccetera. È chiaro che dalle crociate al sionismo, dal califfato dell'Isis al sultanato di Erdogan, sono state e saranno accomunate sempre dalla rigida applicazione con tutti i mezzi necessari dei dogmi, sia essi del capitalismo che delle ortodossie religiose, diciamo sotto gli occhi di tutti quanti noi. Con il ritorno dei talebani in Afghanistan, è chiaro che ecco, noi stiamo assistendo in questi giorni anche ad ipocriti rimpianti dell'Armata Rossa e del crollo del muro di Berlino, cioè proprio da parte di tutti coloro che fino a qualche tempo fa dicevano appunto che festeggiavano, applaudivano il muro di Berlino, che diciamo, categorie di pensiero, filosofi, politici, presidenti di Stato, Fondo Monetario Internazionale, cioè tutto il mondo della finanza e dell'economia, possiamo dire ci hanno fatto il palla pizzaiolo, ha detto vulgarmente, cioè ci hanno proprio costretto ad assorbirci, che è di questa teoria che il muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica dovevano rappresentare l'inizio della pace e del benessere del mondo. E invece abbiamo visto che è stato tutto il contrario. E ritorniamo alla Repubblica, all'Afghanistan, facendo anche un ricorso storico, partendo proprio da quella Repubblica Democratica e Popolare Afghana che fu definita la nazione, definita terra della tolleranza, e di quella Repubblica Popolare Afghana sono rimaste solo macerie. E poi infatti abbiamo assistito dal crollo da decenni ad eventi drammatici che nessuno si sarebbe immaginato di rivivere e di rivedere. Di rivedere i scenari apocalittici dopo la sconfitta del nazifascismo e della seconda guerra mondiale. Ecco, noi, cioè incredulo, persone anche di una certa età che abbiamo vissuto varie fasi politiche, mai ci saremmo aspettate di vivere situazioni che ci fanno rimpiombare indietro al periodo, ai climi politici belligeranti. Qua vi sono guerre in varie parti del mondo, assistiamo ancora a fughe apocalittiche della gente che scappa dalle guerre, scappa dagli stupri, scappa dalle violenze. E quello che infatti dopo il crollo del muro di Berlino, ecco che si sono verificate tutta una serie di situazioni da quel mondo che doveva essere di pace, non è mai stato caratterizzato da così tanti conflitti bellici. Ecco, ritorniamo un poco a dopo il crollo del muro di Berlino e dello sfacelo dell'Unione Sovietica. Ricordiamo che il crollo della Repubblica Popolare Afghana, abbiamo assistito al conflitto mondiale in Iraq, la guerra giusta in Jugoslavia, la Somalia, la Siria, la Libia, lo Yemen, il genocidio del popolo palestinese, il popolo curdo, per non parlare degli esodi biblici delle umanità che fuggono da guerre e dalla fame, con i campi profughi sparsi in tutto il mondo, con milioni e milioni di esseri umani condannati a vivere distende e morire lontano dalle proprie terre e luoghi d'origine. Vediamo appunto che il ritorno dei talebani in Afghanistan, ecco, nell'agosto 2021, con questo ritorno dei talebani assistiamo ai ricorsi storici con i ruoli, come storicamente determinate, le responsabilità degli Stati Uniti d'America, con i suoi fedeli alleati di sempre, come i paesi arabi del Golfo, Israele e la Turchia. È chiaro che è sempre la solita storia, le varie instabilità politiche in Dandaria e geopolitiche, fondamentali per gli interessi economici, per l'accaparramento delle principali fonti energetiche e minerarie, per le quali l'Occidente moderno, Stati Uniti d'America e Nazioni Europee, non hanno mai disdegnato e disdegnano tuttora consolidare stabili rapporti con gli stati arabi islamici che negano, vietano ogni forma sia di laicità dei diritti civili. Basterebbe soffermarsi sulle pubblicità fisse, sulle magliette delle più grandi squadre di calcio, di pallacanestro, eccetera. Quindi ecco, diciamo, il ruolo come dicevamo prima, a fine luglio è la volta di Genova. Ecco, sempre in nome di Carlo Giuliani. E questo, diciamo, questo appuntamento di Genova in pratica fu la sintesi di tutte, diciamo, queste mobilitazioni anticapitalistiche che la Seattle, abbiamo detto, da Seattle, poi alla fine iniziata da Seattle, che poi hanno appunto in questi anni, in quegli anni, diciamo quel biennio, diciamo, crearono molte problematiche ai potenti della terra e che diciamo determinarono alcune mobilitazioni che ancora oggi, seppur magari funzione minimale, ancora resistono, e le tematiche, i conflitti, gli scontri che diciamo caratterizzarono questo biennio, ecco, le tematiche che stavano dietro quei duri scontri, diciamo, ci diedero, ecco, ci hanno dato ragione. È chiaro, sempre come al solito, una magra soddisfazione, anche perché, come stiamo vedendo, a distanza di più di 20 anni, se il pianeta Terra si trova in certe condizioni, se il 70%, quasi l'80% dell'umanità si trova in precaria condizione di vita esistenziale, sociale, sanitaria, problematica ambientale, ecco, la responsabilità è, diciamo, come la denunciamo allora, ecco, i fatti ci diedero, ci hanno dato ragione. Ed è chiaro che il biennio 99-2001, quindi contrassegnato dalle forti mobilitazioni contro la globalizzazione del pensiero unico del capitalismo, ecco i fatti dove che ci hanno dato ragione, che è quella, le mobilitazioni anticapitaliste contro il capitalismo, ecco, ci hanno dato ragione, perché conclamato come responsabili delle peggiori diseguaglianze e dello scempio ambientale del nostro pianeta, di cui appunto oggi ne subiamo le peggiori tragedie umanitarie, sia per le guerre colonialistiche che anche per la pandemia da Covid-19. Ed ecco che le mobilitazioni che abbiamo detto prima si sono svolte, caso strano, nei paesi occidentali capitalisti, sia negli Stati Uniti d'America, quindi cuore del capitalismo, che nel resto d'Europa. E dopo l'11 settembre, diciamo, anche dopo l'11 settembre negli Stati Uniti d'America le mobilitazioni si sono ripetute, insomma, e diciamo, si sono determinati vari movimenti, la Occupy Wall Street del settembre 2011, alla rete attuale dell'opposizione sociopolitica rappresentata dai Black Lives Matter, i movimenti legati al cambiamento del clima, ai movimenti anarchici, al movimento delle donne, ai movimenti dei diritti civili, che, diciamo, specie negli Stati Uniti d'America, hanno dato origine a un conflitto sociale che accompagnò sia il secondo mandato di Obama, proseguito con Donald Trump, e, diciamo, quasi certe seguiteranno con Biden, dove le contraddizioni prima o poi usciranno fuori. Allora, appunto come dicevo prima, a distanza di più di 20 anni di quella mobilitazione anticapitalista che, ribadendo, mise in difficoltà i potenti della terra, il dato politico significativo è che è la testimonianza che lo sviluppo capitalista rimane e sarà sempre compatibile con i tempi dell'umanità e del pianeta. Allora, saremo ripetitivi, però è palese appunto che da Seattle alle mobilitazioni del 1999, alle manifestazioni contro i G20 del 2021, è chiaro, le capacità di complicare la vita ai grandi della terra si sono ridotte, però bisogna tener conto che in questi 20 anni tanta acqua è passata sotto i nostri piedi, cioè tanti sono stati gli avvenimenti, gli sconvolgimenti che, se da un lato hanno segnato un brusco rallentamento dell'intero movimento globale anticapitalista, che dall'altro hanno determinato anche l'acuirsi di tante contraddizioni che hanno aperto ampi margini di manovra politica. E non a caso sottolineiamo il salto politico delle rivendicazioni dei diritti, il salto politico che c'è stato negli Stati Uniti d'America, che dalle rivendicazioni dei diritti civili si è passato ai conflitti sociali di classe, addirittura nel cuore dell'America, negli Stati Uniti d'America. Ed è sempre opportuno, sempre nella memoria storica, ricordare le ripercussioni della politica di Trump che hanno avuto in campo internazionale, sia dal punto di vista economico che finanziario, così come gli scenari di guerra che sono ancora in atto in Siria, in Ucraina, in Libia, così come la questione palestinese, le tematiche delle regioni autonome curde che sono sempre alle prese con la Turchia, che ancora continuano con esercito diretto e mercenari. La Turchia continua a portare a termine nel genocidio del popolo curdo il suo progetto di espansione previsto entro il 2023. Non dimentichiamoci mai queste date. Ed è chiaro che al quadro geopolitico ed economico internazionale noi dobbiamo aggiungere quelle europee, sempre più indebitate e dipendenti nel campo energetico, sia dalla Russia che dagli Emirati Arabi, e ora la questione energetica sia la new entry israeliana, che inciderà e peserà molto sul fattore energetico europeo. Diciamo questa mobilitazione, quindi anche la questione, diciamo, di là di tutte le tematiche che abbiamo detto prima, abbiamo anche un altro problema, quello il ridisegno dei confini che nella tracciata da file spinati e muri, persino nella civile fortezza Europa. Quindi dagli Stati Uniti d'America, ecco perché è importante, perché abbiamo centrato la Seattle e l'G20 degli Stati Uniti d'America, perché essendo fondamentale sostenere il movimento di opposizione sociopolitico operante negli Stati Uniti d'America, perché potrebbe riaprire spazi di accessibilità politica per la sinistra europea, in primis quella italiana, contro le nuove forme di schiavitù, per la tutela della salute, dell'ambiente, contro le multinazionali delle energie, le privatizzazioni sociali e selvagge, e in Europa abbiamo stesso Federico Rifalda. E quindi, ecco, se da un lato abbiamo visto un ridimensionamento del movimento dell'opposizione politica ai grandi della terra, diciamo, sostenere e dare un occhio privilegiato a ciò che avviene negli Stati Uniti d'America diventa fondamentale, perché diciamo, ciò che avviene negli Stati Uniti d'America, quindi, e che poi hanno fatto anche pure i movimenti dei Black Lives Matter, che hanno riunito insieme, che cosa, al di là delle questioni antirazziste, anche le nuove quelle rappresentanze di lavoratrici e di lavoratori contro le nuove schiavitù, abbiamo dalle grandi distribuzioni ai lavori dei servizi, dove veramente, ecco, gli Stati Uniti d'America sono stati all'avanguardia nel denunciare e a determinare momenti di opposizione, e che noi li stiamo vedendo in Italia con le nuove schiavitù, dove ricordiamo dei centri delle grandi distribuzioni nel settore tessile, dove proprio abbiamo forme neanche di neoschiavitù, ma di schiavitù storica. Qua in Italia muoiono nei campi di lavoro, nei campi dell'agricoltura, muoiono nei cantieri edili, muoiono nelle fabbriche del tessile, dove ci sta una composizione interrazziale, diciamo. Ecco perché è sempre importante guardare gli Stati Uniti d'America. E noi dobbiamo, ecco, sempre considerare che diciamo, e quindi in questa fase storica, dove a partire dallo scontro di classi in atto negli States, ecco, abbiamo le forti ribellioni in America Latina, così come gli scioperi generali e la lotta sociale nel cuore del sionismo. Perché Stati Uniti d'America, America Latina, Israele? Perché diciamo, queste sono fondamentali, perché si può riaprire in Italia e nel resto dell'Europa delle lotte per l'uscita dalla NATO, contro la guerra imperialista, quindi per la tutela del pianeta Terra, contro il femminicidio, l'omofobia, il razzismo, contro il nucleare e contro ogni rigurgito nazista o fascista che è celato dai ritorni di forme di nazionalismo identico. E quindi ricordiamo che nonostante le guerre, nonostante le prove militari muscolari della NATO e degli Stati Uniti d'America contro la Cina e la Russia, noi siamo sempre in presenza di un clima di conflitto mondiale che è in atto e in essere senza mai averlo dichiarato. Il tutto nonostante la pandemia, nonostante la manovra finanziaria per rinvigorire lo sviluppo capitalistico, nonostante l'ipercontrollo tecnologico e repressivo, cosa ne esce fuori? Che il mondo non è pacificato da nessuna parte, dagli States all'America Latina, all'Europa, al Medio Oriente. Il mondo non è pacificato, per cui è chiaro che sono motivi per cui come militanti internazionalisti ed antiimperialisti siamo tenuti ad impegnarci. È chiaro dalle problematiche locali con uno sguardo al globale. E diciamo, siamo in una fase storica, come dicevamo, molto delicata, caratterizzata da vicende, avvenimenti che stanno determinando tra l'altro un imbarbarimento comportamentale tra esseri umani ed esseri umani e natura, che con la pandemia stanno mettendo a dura prova anche le nostre esistenzialità politiche. Ecco perché, ecco, ritornare alle mobilitazioni dei contro incidenti dal nord a sud Italia possono rappresentare quei momenti da cui ripartire per rideterminare un ampio movimento di opposizione sociale in grado di incidere nelle politiche sia di casa nostra che nel contesto internazionale, quale la Palestina, la comunità curda e l'America Latina. E a questo vanno aggiunto anche il perché, diciamo, anche di questo periodo, in questi, nella stagione estiva, dei vari campeggi che si stanno tenendo, per dire, dalla Valsusa, e diciamo che si terrà ad Ostuni dall'1 ad 8 agosto, perché è possibile ripartire, è possibile risalire la china con molta onestà, con molta umiltà, e da queste mobilitazioni che sono state coincidenti, diciamo, dal nord al sud Italia, e diciamo alcuni segnali di ripresa politica si stanno vedendo, sia per ciò che riguarda la necessità di riproporre un movimento antagonista, sia per ciò che riguarda la determinazione di un ampio movimento di lotta sociale che tenga uniti il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto a vivere in un pianeta che è sottoposto a un attacco senza precedenti, cui prima riusciamo a ridurre i danni per lo sviluppo del capitalismo, prima diciamo, ecco, noi potremmo, ecco, contribuire a lasciare un mondo migliore per noi e le nostre future generazioni, quindi le nostre figlie, i nostri nipoti. Cari compagni e cari compagni, nel rinnovare l'invito a chi si trova, magari che nel periodo estivo vuol fare un turismo intelligente, quindi dalla Val Susa al sud, ad Ostuni, diciamo, sarebbe buono che magari, ecco, anche passare dei giorni in questi due punti sarebbe una cosa importantissima e importante, ma anche non solo per riscoprire momenti di socialità, ma anche per dare un contributo anche approfondimento sulle varie tematiche che, diciamo, vi abbiamo citate anche in questa trasmissione. Ciao compagne e compagni, alla prossima. Alle compagne e compagni che seguono Radio Asilo, un grande ciao, nonostante il caldo afoso e i cataclismi climatici. Ciao a tutte e a tutti.